Scusa. Cosa c'è? E le uova. Ah, beh, sì. Quante uova ne hai mangiate? Sono, otto. Stamattina 8. Occhio, No, occhio. 8. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Buona Pasquetta a tutti. Intoniamo il canto della Pasquetta. Ma quale canto? Tutti insieme. Ma non esiste nessun canto. Drago, della si improvvisa il canto della Pasquetta. Ma lascia stare, già. Sono questi dei giorni che andiamo. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno che ascolta, nemmeno per sbaglio. Anche nelle proprietà private. Scavalchiamo. Sì, bravo. Il filo spinato. Tu e ci mettiamo sempre la gente a fare delle ad cose. Ad accamparci con i fuochi dove non si possono accendere. Ma piove quasi. E le uova sode. Attento però. E le chitarre. Vabbè. E le gli ukulele. Mi sa che rovini un po' la Pasquetta, sì, a quelli che me stanno facendo già la loro Pasquetta, no? Quindi questa è una bella soddisfazione. Vabbè, senti, ma facciamo così. Siccome domani si torna a lavorare tutti quanti, anche quelli che adesso sono lì con le chitarre, con il fuoco, così. Domani, signori, è martedì. Come triste mardi. Ma siamo lunedì di Pasquetta. Vabbè, ma è solo un memento mori. Vabbè. Memento mardì, anzi. Daddy. Hey Daddy. What's up there? E ora, bambini, ricreazione! Allora, ci siamo? Pronti? Sì, e io ci sono. Ci sei? Benvenuto al raduno scout del gruppo dei fagiani. È una voce registrata? Come una voce registrata? Cosa stai parlando? Ah no, i fagiani, chi sono i fagiani? E qui tu? Non c'è lo scout qui. E certo, tu sei il capo della squadriglia dei fagiani. C'è il corso scout, hai il capo. Beh, il capo allora. Ti metto a capo di questa squadriglia importantissima che a guardarti, proprio dal tuo aspetto estetico, mi è venuto in mente. No. Ci abbiamo gli squali, i castori, le volpi, aspetti, te fai il fagiano. E perché, scusi, è l'unico che viene cacciato. Cioè, c'è la caccia al fagiano, è quasi. Cioè. È perché gli scout devono imparare a mettersi in entrambi i ruoli, non soltanto quello del cacciatore, della preda, dell'avventura, anche quello di essere ogni tanto la preda. Però. Capo almeno, probabilmente io sto nelle retrovie, cioè a me non cacciano, no? Perché sono il capo. Gli altri fagiani, no. Adesso però qua siamo noi due. E siamo noi due perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, no, ma io sarò con loro. No, ma perché cantiamo? Canterò qui con loro. No, cantare, c'è l'avventura, no? Qui è lo scout, qui c'è sul depliant della pubblicità, qui, perché i miei genitori hanno pagato la retta, il conquibus. C'era nel depe, c'era l'avventura, sei bambino, avventuroso, audace? E hai detto sì, e allora qui c'è l'avventura. Ma Alberto, tu ti devi dimenticare che gli scout sono soltanto l'avventura, perché gli scout hanno anche altro. Gli scout sono anche qualcosa di più particolare, di più morale, di più pedagogico. No, la missione dello scout, cos'è il compito primario, precipuo dello scout? Ecco quella roba lì, il precipizio, no? Io, roba di avventure, essere sul precipizio con legato. Lei va avanti perché io sono un bambino minore. E poi no, coltellino con mille usili. E poi il nodi. Ma se vai sul precipizio. Il nodo Savoia. Savoia. Sì, il nodo Savoia. Perché anche Emanuele Filiberto faceva parte del nostro gruppo. No, lui chi? Perché lui è l'ultimo che è rimasto dentro di noi. Savoia sono proprio quelli cui noi ci ispiriamo come modalità. Ma voi chi? Ma noi siamo i due, siamo lei che è il direttore. Io ma perché? Perché tu devi portarli a te, dove due o tre sono. Cioè, tu, scusi, Alberto, sei lei a capo di te stesso, devi imparare a governarti. Governarti, poi potrai anche imparare ad avere degli altri fagiani a cui insegnare le cose che ti insegniamo dello scautismo. E tra cui, proprio per questo, benvenuto alla prima lezione su come essere un buon scout. No, ma canta. Eravamo ragazzi ancora, con il tempo aperto davanti, i giorni più lunghi, coi calzoni corti, no, a caccia di vento e semplici canti, la carta e la colla insieme, sì, incrociare due canne più forti, sì, legate allo sbago, le nostre speranze, e i nostri doni, no? Di giorni mai morti, no. E va in là, no, contro vento e lotta dura. segui lo spago e se sta qua tira fuori noi, perché ci caliamo non è vana speranza. Però, capito, e basta, cambierà oltre la siepe va. E quando è che cominciamo? Ma questa è la sigla, è la sigla. Allora se la sigla io vado, perché la sigla, il titolo di coda, io vado e poi arriverà il ricorso per l'imposta dei soldi. Oltre la siepe va. Pronto? Allo? Ah, signor Wunderwaffer, che piacere sentirla. Piacere, due belle calde. Chi è tu? Tu, io come si chiamano queste specie di babuini? Ma quali babuini? Adesso per cortesia. Cacca? No, io non so, io sono Drago e poi va bene tutto, però il mio collega non si chiama cacca, si chiama Kappa, Kappa. Che se ne frega? Allora, cosa singolare mi è capitata oggi, molto singolare. Cosa le è capitato di oggi singolare? Oggi mi sono detto... Vabbè, guardiamo la funda posta elettronica. Sì. È proprio in cima di posta arrivata. Ecco, wundermissiva di giovinotte di radio. No, ecco, guarda, noi devo spiegare in effetti perché... Proprio, io pensavo a miratori, io pensavo a ringraziamenti. E invece... invece è successo... due stafilococchi avrebbero scritto lettera migliore. Ma guardi, lei ha assolutamente ragione. C'è stato un errore nel testo della mail, che però, guardi, insomma, noi vorremmo alla fine solo ricevere il compenso di cui si era parlato, capito? Vabbè. Poi ora, come tante piccole signorine viziate, soldi qui, soldi là, soldi su, soldi giù, ai miei tempi era diverso, caro signor papà. No, non sono ai miei tempi ci si arrangiava con quello che si aveva. Sì, capito, e quando ho cominciato di lavorare io, caricavo in spalla mazzuolo, piede di maiale... E caricavo martinetto. Ma cosa piede di maiale? Cos'è piede di maiale? Andare, piede di porco. Ah, piede di porco. Ma scusi, ma lei che lavoro faceva quando ha iniziato? Facevo wafer. Come wafer, però con il piede di porco. Erano tempi durissimi, si iniziava impresa, era un start-up, non avere di soldi per comprare latte, per fare crema di wafer, e quindi io andavo a prenderlo di notte. Rubava il latte, ma scusi, non si può cominciare l'impresa. Quando andava bene portavo via anche di vacca, vacca. Ma come sarebbe, ma signor Wunderwaffer? E poi andava molto molto bene, proprio di fortuna, venivo sorpreso da Mandriano. Ah, se era fortuna, e quindi? E quindi a quel punto serviva di mazzuolo o martinetto. Ma no, ma come sarebbe a dire? In testa ha portato via anche Mandriano. Ma no, ma come? Rapiva il Mandriano? E cosa se ne faceva? Lo chiudevo in baracca di attrezzi fino a che lui arrendeva e firmava di contratto. Ma così quale contratto? Acquisivo dipendenti e piccola attività cresceva fino a diventare grande fabbrica. Grande fabbrica di meravigliose Wunderwaffer. Ma robe da pazzi. Questo si chiama creazione d'impresa. Ma come creazione d'impresa? Ma abbia pazienza. Erano altri tempi. Sì. Alla, caro Zappa, lei mi ha fatto ricordare bei tempi andati di mia giovinezza. Io sarei Drago, però vabbè, dai. Per dimenticare questi attriti, io invierò ancora altre meravigliose Wunderwaffer. È tutto bene quello che finisce bene. No, ma guardi, la ringrazio, non è il caso. Lasciamo pure... di più, caro Grappa. No, dozzina di scatoloni di nuovo innovativo wunderprodotto destinato a rivoluzionare il mercato italiano poi dopo mercato di intero mondo. Ma già i Wunderwaffer normali vanno benissimo, mandi quelli. Adesso c'è Wunderwaffer innovativ, Wunderwaffer irresistibile. Un po' francese, perché abbiamo anche di dipendenza vicino di Lucerna, fabbrica dove parlano tutti francesi. Ma no, Lucerna parlano svizzero francese, dicono cose come 70, 80 e 90. Vabbè, sono svizzeri francesi e quindi... Adesso farò anche Wunder irresistibile Wunderwaffer di gusto gorgonzola. Vabbè, francese, giustamente, che schifezza. Anche dolce o piccante, o anche dolce, anche piccante e anche umami. Wunder saluti! Lulululululu! torniamo domani. Ti ricordi quando scrivevamo così? Torniamo. E poi cosa bisognava dire? Non lo so. Poi dicevamo quella mail inutile, chiedo asilo, è tra di 24. Ormai arriva solo da oggi. Questa mail è. È morto. Ma no, ma non è morta, che poi non arrivano più le mail, ma quelle mail? Messe in quarantena, oppure in large your penis nel tuo caso e reduce your penis sì. nel mio. Sì, perché sono personalizzate. Certo, lo sanno tutto di noi, hanno tutti i dati. E allora hanno fatto carino, secondo me.